Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Carolina è mia figlia minore. Il nostro è un rapporto difficile ma sincero. Difficile perché è un contrasto unico su quasi tutto. Sincero perché comunque quello che dobbiamo dirci ce lo diciamo. Sono Gianni, chiamo dalla provincia di Brescia. Sono odontotecnico, ho un mio laboratorio, 52 anni. Sono sposato con Mariella e ho due bellissime ragazze. I motivi per cui facciamo le cose sono, diciamo, insondabili. Spesso lo sono per noi, figuriamoci se lo sono per altri. Ecco perché oggi vorrei cercare di capire il motivo per cui, se ci venite, cioè se siete tra quei 600 che in qualche modo sono riusciti a compilare il modulo che avete trovato sul sito di Radio 24 e quindi siete ufficialmente iscritti e quindi il 27 di giugno sarete presenti qui al live di Voi Siete Qui, vorrei sapere perché ci venite. 349-238-6666, ma anche oggi eccezionalmente, e perché sarà perché non c'è Tiziano Bonini, quindi liberiamo addirittura i telefoni, 800240024. Vengo al live perché? Perché io non ci credo che venite solo per vedere di nuovo me che racconto le solite storie. Solite storie è un modo sgarbato per dire che semplicemente selezioniamo 10 storie da tutto l'arco della stagione 2012-2013, quelle che abbiamo definito le più rappresentative, e le rimettiamo in scena, semplicemente. Le raccontiamo leggendole in un modo un pochettino più approfondito di quanto succede quando facciamo qua in radio. Quindi 10 storie in una serata, ma sono sicuro che quello non è l'unico motivo. 800240024. Vengo al live perché, ad esempio, l'anno scorso mi ci sono fidanzato e quindi è un modo per festeggiare un anniversario. Oppure vengo al live perché voglio rubare tutti i gadget di Radio 24. Sapete quelli che vi danno nel sacchetto? Le ragazze del marketing qua ci infilano di tutto in quel sacchetto. Ci infilano gomme da masticare. Credo l'unico gadget, Margherita, grazie per fare così con la mano, come dire, ma cosa stai dicendo? L'unico gadget che non c'è sono le gomme da masticare, però gomme per cancellare, penne, libri, matite, bravo la corte. Una volta si regalava addirittura una radiolina. Beh, ma quelli erano i tempi in cui ancora esistevano le radioline. 800240024. Vengo al live perché, ad esempio, sono triste solo e spero di limonare quella sera. Che so, magari uno arriva, sono le 9 di un 27 di giugno qualunque, fa un gran caldo, nella sala collina c'è l'aria condizionata, le storie, le emozioni, la musica di Bonini, le foto che scorrono sulla parete, buonanotte, sul fondale, sembrava te quando vai dagli amici e ci sono i, come si chiamano, le slide, no Pietro, come, le, no le cornici, dai come si chiamano, le diapositive. Sembrava la diapositiva degli amici, invece no, sul fondale scorrono le foto, c'è un'atmosfera calda e così magari ci scappa che uno si bacia con una. Ecco, se quello è il motivo, 800240024. Vengo al live del 27 perché c'è la nonna di Margherita che ufficialmente verrà cooptata e verrà trasportata su una lettiga direttamente da Lomentino. Oppure semplicemente vengo al live perché al controllo del mix c'è Pietro Lacorte. 800240024, ma anche 349-238-6666. Ognuno c'ha i motivi che vuole per venire al live, ognuno ce lo racconta il suo, anche se è proprio tanto intimo. 349-238-6666 o al telefono in diretta dal vivo 800240024. A questo proposito, e poi chiudo, ricordo che per venire, sì, l'ho già ripetuto centinaia di volte, per venire è sufficiente che vi scriviate gratuitamente dalla pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24 cliccando sul mio faccione, c'è una fotografia in alto a sinistra, ci cliccate e compilate il form tecnicamente, o insomma la scheda di iscrizione. Elisa del marketing mi dice che non ci sono più tantissimi posti, quindi, come dire, magari non di corsa, però se ci avete mezz'ora di tempo io mi iscriverei. 800240024, i motivi per cui venite qui il 27 di giugno. Veniamo invece a raccontare la storia di oggi, che è la storia di Gianni, che non ha a che fare col 27 di giugno, ma ha a che fare con i propri idoli e fino a che punto ci si spinge per arrivare a vederli e quasi a toccarli. Carolina è mia figlia minore. Il nostro è un rapporto difficile ma sincero. Difficile perché ha un contrasto unico su quasi tutto. Sincero perché comunque quello che dobbiamo dirci ce lo diciamo. È il luglio dello scorso anno. Io dopo una lunga giornata di lavoro ceno. Si chiacchiera a tavola con moglie e figlie e poi dalle 22 circa mi rilasso sul divano facendo zapping. alla ricerca di qualche programma TV che mi interessi. Dico che il rapporto con mia figlia è difficile, ma difficile penso è quello che possa essere un genitore con un figlio adolescente, poi femmina, dove magari col papà si confidano meno e molto più con la mamma, per cui io poi quello che magari devo sapere è mia moglie che me lo racconta, e con Carolina a volte mi trovo a fare un terzo grado e mi rendo conto che non è tanto disponibile. È venerdì di metà luglio circa, sono le 23. Carolina viene da me con il PC in mano e mi dice: papà, Cristiano Ronaldo è a Merano, al Palace Hotel. Parte domani mattina alle 8. Ci andiamo? Io non aspetto altro che accontentare mia figlia con un'impresa che possa essere ricordata. E senza esitare le dico: ok, alle 6 di mattina si parte. Quasi lei non si aspetta un sì così rapido. E mi racconta tutto. Lei, appassionata e tifosa del Real Madrid, ma soprattutto di Cristiano Ronaldo, in un fan club legge di una ragazza che viene a sapere che Cristiano Ronaldo ha raggiunto la sua fidanzata a Merano, in questo centro benessere, e sarebbe ripartito l'indomani mattina. Quale occasione migliore per guadagnare punti con mia figlia? Brescia-Merano, poco più di 2 ore di auto. Alle 8:15 siamo fuori dal Palace Hotel. Oltre il cancello, sulla strada, già una decina di ragazzi. Chiedo: è qui Ronaldo? Mi rispondono di sì, che è lì da 4 giorni, ma non è ancora mai uscito. Eppure quel giorno sarebbe dovuto partire. Inizia il carosello di auto di lusso che entrano a prendere gli ospiti, caricano i bagagli e via. Tutti i minuti sono buoni, Carolina è emozionatissima. Il tempo passa, la gente aumenta, ma di Ronaldo nulla. Fortunatamente di fronte all'hotel c'è un bar con grandi vetrate e così inizio la spola: colazione, caffè, bibite, aperitivo. Socializzo con la signora del bar e le dico che arriviamo apposta da Brescia per un autografo. Lei mi dà del pazzo, io penso che forse non ha figli adolescenti. Arriva l'ora di pranzo, Carolina imperterrita fuori dal cancello. La convinco a un pranzo veloce sempre al bar. Nel frattempo, fuori l'hotel, una 50ina di ragazzi e ragazze e signore, ma di lui nulla. Pranziamo dietro le vetrate Fronte Palace. Sono le 14 circa e alcuni dipendenti, finito il turno, escono, ridono e scambiano battute del tipo: tanto non esce. Uno di questi entra al bar, la signora racconta di noi, questo viene al tavolino e ci racconta di Ronaldo. Ci dice che in hotel è riservatissimo, non parla con nessuno e lui però non è sicuro che sia oggi il giorno della partenza. Improvvisamente vediamo che attorno alla guardia al cancello la gente si avvicina. Questo parla per qualche secondo e poi tutti se ne vanno. Io e lei ci guardiamo e ci diciamo: che si saranno detti. Finiamo velocemente di mangiare e usciamo. Chiediamo alla guardia, questo ci dice che oggi assolutamente non sarebbe uscito. Io e Carolina ci guardiamo sconsolati. E allora la mia ultima richiesta dettata dallo sconforto. Lo guardo e gli chiedo: mi scusi, veniamo apposta da Brescia. È sicuro di quello che ci ha detto? Lui attende un attimo, ci guarda e dice: alle 21 un'auto lo verrà a prendere per l'aeroporto. A quel punto sono le 14:30. In quel momento penso: o questo vuole scoraggiarci oppure è vero, gli facciamo compassione e ci dice la verità. Guardo Carolina, le dico che è inutile restare qui, fidiamoci. Andiamo a fare un giro e torniamo alle 20:30, facciamo un giro a Bolzano. Poi prendiamo una pizza a Merano e alle 20:45 siamo fuori dall'hotel. Non c'è nessuno, nemmeno una guardia. La sbarra sempre abbassata. Ci guardiamo e con un cenno complice rimaniamo lì e aspettiamo. I tavolini del bar intanto si sono riempiti, sembrava che tutti guardassero noi. Sono le 20:55 quando una Mercedes nera coi vetri oscurati si avvicina. La sbarra si alza, entra, si ferma all'ingresso principale. I facchini caricano valigie. Esce una ragazza, sale in auto, subito dopo un ragazzo, alto, capelli corti, esce e in un nanosecondo aggira l'auto da dietro e sparisce. Guardo Carolina e le dico: è lui. È servita per conoscerci un attimino meglio, perché forse anche nei suoi 15 anni è stata forse la prima volta dove siamo stati una giornata insieme soli, io e lei, e si è parlato e si è detto. E ho visto e letto anche tante emozioni che magari in lei prima non l'avevo visto. L'auto parte, Carolina ha un poster di Cristiano, lo srotola e mette in vista una penna. Le dico: stai tranquilla, vedrai che si ferma. L'auto passa sotto la sbarra, fuori solo noi. Si ferma, le dico. A quel punto ero emozionatissimo pure io. L'auto si ferma. Lui prende il poster, lo firma, si mette in posa per la fotografia. Io scatto veloce, ma solo a lui. Mia figlia è impietrita, lo guarda. E allora le dico: forza Carolina, abbassati che scatto. Lui la guarda, sorridendo, e capisce l'emozione. Si lascia fare alcune fotografie. Lo ringraziamo, ci salutiamo e se ne va. Io e Carolina ci guardiamo, lei mi abbraccia forte, poi il viaggio di ritorno, uno dei momenti che resteranno nei nostri ricordi. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint the sign so you'll always know, as long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you. Quando ho letto il racconto di Gianni ho pensato che io non avevo mai fatto una cosa del genere. Cioè che non ero mai stato così tanto affascinato da un personaggio pubblico, al punto da andare ad aspettarlo fuori da un albergo. Quando ero ragazzino, con un autobus dell'Interclub di Gagliate, eravamo andati alla Pinetina a salutare Karl-Heinz Rummenigge. Era l'epoca in cui lui mangiava il formaggino d'oro Grunland. Però non era stata una follia. Poi invece, ripensandoci e anche un po' vergognandomi, mi sono ricordato che qualche anno fa, in un periodo piuttosto buio della mia vita, mi ero innamorato di una starlet della televisione ed ero andato ad aspettarla sotto casa con un mazzo di fiori. Lei si chiamava Elisabetta Canalis. Sono le 7 del mattino e sono sotto il portone di Elisabetta Canalis, aspettando che esca di casa. Ho freddo, sonno e accanto a me c'è un clochard che sta riemergendo dal suo nido di stracci. Io lo saluto, lui mi saluta. Penso che forse è meglio che me ne vada a casa. Che sto facendo? Voglio dire, a patto che prima o poi lei esca di casa, cosa potrei dirle? Ciao, tu mi conosci, ma mi sono innamorato di te. Sai, ti ho visto alla televisione e poi come per magia sei venuta a mangiare nella pizzeria dove lavoro. Ti va se ci sposiamo? Questa mi prende per pazzo, giustamente tra l'altro. Poi chissà in quanti hanno già fatto la stessa cosa che sto facendo io. Però che ne sai, magari vedendomi anche lei ha la stessa reazione che ho avuto io, no? Magari siamo veramente fatti l'uno per l'altra. In fondo i colpi di fulmine esistono. Forse ci stavamo cercando da una vita e finalmente ci siamo trovati. Sì, in fondo che sto facendo di male? Mi sono innamorato di lei. Cioè, il fatto che l'abbia conosciuta guardando un programma in TV è un problema secondario. Certo, che lei non sappia chi sono io è un po' meno secondario, però se non mi presento non saprà mai della mia esistenza e magari non ci vedremo mai più. E tutte e due, un giorno, moriremo senza aver trovato il grande amore. Perché il grande amore eravamo noi. Va là, deciso, aspetto. Intanto, ridendo e scherzando, si sono fatte le 10:30 e io sono sempre sotto casa di Elisabetta. Alla fine, al posto dei fiori, le ho comprato una palma. Ho pensato che i fiori erano un po' poverini e poi durano poco. Invece la palma sembra essere la pianta più longeva che esiste in natura. Ad essere sinceri, il fiorista mi ha detto che le piante che vivono di più sono le querce, però presentarmi da Elisabetta Canalis con una quercia mi sembrava troppo impegnativo. Il clochard se n'è andato e ora, riflessi nella vetrina, ci siamo solo io e la palma. Sembro un'installazione di un artista, neanche tanto bravo. Però se fossi una donna mi farebbe piacere. Bene, direi che sono pronto, ora non resta che aspettare che esca. Sì, però rimane il problema di che cosa le dico appena la vedo. Una poesia, ecco cosa, potrei dirle una poesia. Ne avrò ancora qualcuna in testa di quando ero bambino, no? Vediamo un po'. Una roba tipo, se ti avessi portato un fiore, vedendoti quel fiore sarebbe appassito. Perché davanti al fiore che tu sei, nessun fiore si sentirebbe in diritto di continuare a fiorire. Fa veramente schifo questo, soprattutto è ricca di sinonimi. E poi, finalmente, la vedo. È lei. È ancora più bella di come la ricordavo. Con lei c'è un tizio che sembra uno scemo. Me ne frego. Mi metto sotto la palma e attacco lentamente con la mia poesia. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Devo innanzitutto chiedere scusa all'Accademia della Crusca e alla mia insegnante di italiano di quando ero un ragazzino, perché avevo scritto una cosa e ne ho detto un'altra e insomma è uscito un vadi invece che un vada. Improvvisamente ero Fantozzi e Filini. Batti, ci diamo del tu. No, no, dico batti lei. 800240024. Vengo al live perché io vengo al live perché condivido con mio figlio la passione per le storie raccontate e così verremo insieme. Rosetta, 800240024. Se siete degli affezionati, ma anche no, se è la prima volta che venite, se avete deciso che il 27 ci siete, stiamo chiudendo le iscrizioni, non ci sono più tantissimi posti, chiamatemi all'800240024 e in fretta, ne raccontiamo un pochettino di ragioni per cui avete voglia di venire il 27 di giugno, che ormai tra l'altro è giovedì prossimo. Vengo al live perché parto di proposito da Lecce, scrive Pierluigi, perché l'anno scorso mi è purtroppo saltato e perché Radio 24 è la mia compagna di ogni giorno e quindi in viale Monte Rosa 91 io ci bivaccherei per tutto il tempo. Pierluigi, 80024 e 0024, vorrei capire com'è che vorresti bivaccare tutto il tempo in viale Monte Rosa. Torniamo però alla storia di oggi, che raccontava un'altra storia, la storia di Gianni. Parla, sì, perché è vero che parla di vedere un proprio idolo e toccarlo da vicino, però parla anche d'altro, parla in fondo parla di un rapporto tra padre e figlia. Pronto Gianni? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Eccoci. Bene, grazie. Dove ti trovi adesso? Ma adesso sono al lavoro. Cioè, quindi in ufficio? Laboratorio, come ti dicevo, un laboratorio odontotecnico. Ah, tu sei un odontoiatra? Odontotecnico. Odontotecnico. Che differenza c'è tra odontoiatra e odontotecnico? Differenza abissale, diciamo che... Beh, certo, io te lo chiedo col dentista o con l'odontoiatra, il lavoro che poi viene eseguito, quello dietro le quinte, lo facciamo noi. Ah, quindi tu fai, che so, i ponti, fai le robe in ceramica. Bravo, che costruiamo poi protesi che siano fisse o mobili. Che poi sono quelle fondamentali, no? Perché se uno c'ha un dente più giallino degli altri denti è un disastro. È colpa nostra, sì. Quindi c'è un non so che di artistico, no? Nella tavolozza di colori dei denti degli italiani. Sì, diciamo di sì, perché comunque da zero, da polvere e liquido, devi realizzare appunto un dente con le sue sfumature e quant'altro. Gianni, come va? Scusami, la chiedo a tutti questa cosa, perché un po' Radio 24 se ne occupa, no? Nel senso che è una radio, è una talk radio, però parla moltissimo di aspetti legati all'attualità, è una sorta di fotografia quotidiana, certo, di quest'epoca. E allora, anche se io parlo d'altro, mi piace soprattutto con quelli che hanno un lavoro artigianale, direi, no? Si sì, può definire. Sì. No, vero, sei un artigiano a tutti gli effetti, siamo, cioè il contratto. Okay. Albo degli artigiani, sì. Come va? Come va il lavoro? C'è un calo di denti? Cioè la gente chiede... Ascolta, per quel che mi riguarda va abbastanza bene. Ok. Va bene, non alziamo la voce, comunque rispetto a 2 anni fa sta leggermente migliorando ed è in ripresa, Ok. Speriamo continui così. Intanto Gregorio mi scrive: io incontrai Paolo Roberto Falcao in aeroporto, che emozioni il divino aveva saputo regalarmi. Qua però parliamo d'altro, Gianni, perché tu non l'hai incontrato per caso Cristiano Ronaldo, sei andato a prenderlo praticamente. È vero, ma guarda, poi sì. No, dimmi com'è andata, dimmi qualcosa di più, cos'è rimasto dopo, guarda, quell'incontro con tua figlia. Se avessimo dovuto sceneggiarlo prima non l'avremmo scritto meglio, perché comunque quel che importava a me era accompagnare Carolina e cercare poi di farla incontrare con il suo idolo. A me sinceramente incontrare Cristiano Ronaldo poteva interessare relativamente, sono anch'io sportivo, mi piace il calcio, però Cristiano Ronaldo è l'idolo di Carolina ed è tempo che mi diceva: papà, andiamo a Madrid, andiamo a vedere una sua partita e quant'altro. Però pensare poi da soli, visto come poi se ne era messa la giornata dove c'erano tantissime persone, che se magari fosse uscito in quel momento avrebbe salutato al volo e se ne andava. Certo. E invece eravamo rimasti solo noi, lui si è fermato e ha messo a disposizione 2 minuti del suo tempo per Carolina e questo mi ha emozionato tantissimo. Tra l'altro la foto che ci hai mandato, che racconterò più tardi, è proprio quella foto lì, cioè quella foto che tu hai scattato in cui c'è Carolina e lui che ha la faccia, devo dire, abbastanza sorridente, perché non, chiaramente noi da questa parte della staccionata diciamo sempre: madonna, ma cosa sarà 30 secondi per fare una foto? Se però 30 secondi li devi spendere ogni passo che fai, probabilmente è un pochettino più complicato, quindi bravo. Tutto sommato abbiamo una c'è rimasta una buona idea di Cristiano Ronaldo, giusto? A me, diciamo, non mi sta simpaticissimo, però dopo il tuo racconto no. un pochettino di più. Gianni, e poi ti devo salutare, tu vieni al live, vero? No, lo so, no, non credo, ci verrai volentieri sicuramente. Se mi dici che c'è Cristiano Ronaldo, ma riaccompagno Carolina. Guarda, stiamo in attesa che ci dica di sì a breve. fammelo sapere. Non riesce a venire, non riesce a portare Carolina. Non lo so. Anche perché giustamente parliamo, Carolina ascolta M2O, Carolina. Ascolta la radio, tua figlia. Sì, adesso sicuramente la sto ascoltando, ma quando capita l'ascolto. Adesso sì. Lo immagino. Senti, salutamela tanto, grazie ancora per la storia e comunque facci un pensierino per giovedì prossimo. Senz'altro, grazie. Ciao, grazie per la disponibilità, buona giornata. Ciao. 800240024, se siete tra quelli che ce l'hanno fatta ad aggiudicarsi quei posti che c'erano nella sala collina, vengo al live perché 800240024. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Voi siete qui. Se non siete qui, cioè se non siete al mare a prendere il sole, ma non immagino, forse non state ascoltando in quel caso, se siete davanti a un computer, andate a vedere la foto che ci ha mandato Gianni, perché c'è sua figlia Carolina, ovviamente, e c'è Cristiano Ronaldo. Credo che sia l'unica, forse la prima foto con una star assoluta che pubblichiamo sulla nostra mappa personale del programma e di storie di Voi Siete Qui. C'è lei che è chinata verso lui, ovviamente non è sceso dall'automobile, è rimasto in macchina, ha abbassato il finestrino. Lui si sporge verso la luce del finestrino per avvicinare la sua testa a quella di Carolina. Carolina ha su degli occhiali, una felpa bianca e ha un leggero trucco azzurro sopra gli occhi. E tutte e due sono molto sorridenti. Idolo. Sostantivo maschile. Oggetto o immagine cui si attribuiscono caratteri e poteri divini. Estensivo, oggetto di un'ammirazione o di una dedizione gelosa o fanatica. In filosofia, falsa immagine che deforma la percezione della natura e l'esperienza. Deforma l'esperienza, giusto? Cioè la percezione e l'esperienza. Etimo dal greco eidolon, simulacro, data inizio secolo XIV. 800240024 per chiamare in diretta a raccontare qual è il motivo che vi fa venire al live giovedì prossimo. Può essere il più banale, il più privato, se avete voglia di raccontarlo, o invece il più particolare di tutti. Ci sono alcuni che non ce la fanno, ad esempio, verrei al live perché vi seguo, seguo voi Radio 24 dai tempi di Vendo Tutto, ma ho una figlia di 26 giorni da cui non posso stare lontana più di un'ora. E poi ancora Fabrizio, Matteo, convinci Anna, la mia fidanzata, a venire con me al live. Fabrizio, tu capirai che mi mette un po' in imbarazzo questa cosa. Primo, perché devo convincere una che non c'ha voglia di venire a fare una cosa. E in generale faccio fatica a convincere, a far cambiare idea alle persone che hanno un'idea abbastanza chiara. E secondo, perché sono proprio il diretto interessato, capito? Cioè, sarebbe veramente brutto dire, ma come no? Ma Anna, ma figurati, ma è una grande serata, vieni. Secondo me è più facile se di rimbalzo trovi un modo tu per farla venire. Giulio, c'è il buffet? Altrimenti non vengo. Giulio, mi spiace, ma il buffet è come al solito è una sorta di arma a doppio taglio, perché tutti gli eventi hanno il buffet e poi la gente s'abbuffa e basta. Di solito cerchiamo di far venire persone che hanno voglia di ascoltare una storia. 800240024 è proprio il caso di Rosetta. Pronto, Rosetta? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Dove sei, a casa? No, sono in studio. Sei in studio? Che cosa fai, Rosetta, nella vita? Faccio il medico. Medico di base? Sì. Ah, quindi sei di turno? No, sono qui che sto sistemando le mie schede nel computer. Ma schede dei miei pazienti, non sto facendo ambulatorio. No, l'ho capito. E l'ambulatorio quando ce l'hai? L'ho fatto stamattina. Dalle alle? E oggi mi è andata bene, dalle 9:30 ho finito verso le 2. Ammazza, di fila? Di fila. Ma scusami, dalle 9:30 alle 2 tu avrai sempre gente, immagino lì. Ebbene, sì. Senti, questa è una cosa che una volta un medico, scusami, vado da un'altra parte, però sono molto curioso. Un medico che avevo conosciuto, figurati, un medico che aveva comprato un mio oggetto avendo tutto, mi disse: l'80% del mio lavoro non è fare diagnosi, è ascoltare le persone. Lo so, ho sentito quando l'hai già detta, sì, lo so, mi ripeto, sì. Sono noiosissimo, però è una cosa che poi chiedo sempre. Di solito non lo chiedo in onda, quindi la gente non è dice, vero, l'ho già sentito. Devi ascoltare. Ed è la parte però, più fatica. Matteo, è un po' anche quello che fai tu, quando leggi le storie le hai ascoltate. Sì, però come dire, diciamo, quella è proprio una parte sostanziale del mio mestiere, invece la vostra è un'altra in teoria, no? La vostra è guarire le persone. Ma sai, molto spesso è solo fargli compagnia. Rosetta, poi ti lascio andare. Quindi tu vieni in live perché? Senti, io vengo live, spero, perché io non sono riuscita, mi sono iscritta, ma non sono mai riuscita né col tablet né col computer a scaricare quel benedetto modulo. Cioè, ma nel senso che sei riuscita a iscriverti però? Sì, mi sono iscritta. Ok, guarda. Per cui spero di... No. Tanto sai... Io abito vicino, per cui se poi ci cacciate via... No, ma non ti cacciamo via. Se sei fatto l'iscrizione dovrebbe essere tutto a posto. Dai, male che vada, te ne fanno compilare un'altra qui. Rosetta, ci vediamo giovedì prossimo. Ok, fatti riconoscere. Ciao, grazie a te. Ciao. E poi lui, l'abbiamo letto prima il messaggio, non potevo non sentirlo. Pierluigi da Lecce. Pronto, Pierluigi? Ciao, Matteo. Come stai? Bene, grazie. Sei a Lecce? No, vabbè, io abito in provincia. Ok, però sei in Puglia, insomma. Sì, sono giù, sì. Senti, come fa? Raccontami logisticamente come fai ad arrivare giovedì prossimo. Io parto lunedì prossimo. Parti con anticipo, insomma. Sì, esatto. È un lungo viaggio. Dimmi come parti. Dimmi dove stai. Voglio sapere tutto per Luigi. Parti, o c'è qualcosa che non puoi raccontare? No, magari non te lo ricordi, però io sono quello dell'errore di bersaglio. Ma certo, come no, che giochi a calcio con la squadra. Esatto. Quindi stai da tuo fratello? Sì, esatto. Vedi sì. Che mi ricordo tutto? Ok, sì. Pierluigi, quindi arrivi su lunedì, giovedì sera, con chi vieni? Non sei da solo? No, sono da solo. Ma tuo fratello non lo porti? No, ho cercato di convincerlo, ma non ce l'hai fatta. Pierluigi, sembri immerso in un vuoto assoluto, c'è un silenzio irreale intorno a te. Ti aspetto giovedì prossimo. Va bene. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Emanuela, provincia di Lecco. Pronto, Emanuela? Pronto? No, non sei Emanuela, mi sembra. Sei Emanuele, forse, da Brescia. Emanuela. Ah, eccola qua, Emanuela. Ce l'abbiamo. Pietro aveva mischiato le cose. Emanuela, perché vieni al live? Perché voglio conoscervi, ascolto sempre la vostra trasmissione, la vostra radio. Per basta, cui direi che altro. È la prima volta, è la prima volta che vieni? È la prima volta che vengo, è la prima volta che telefono. Brava, radio, Emanuele. Per cui... Una nuova esperienza umana Radio 24. Esatto, ci vediamo giovedì prossimo. Ok, grazie, ciao Emanuela. Ciao. Andiamo. Dai, Emanuele, che prima aveva risposto. Pronto, Emanuele? Pronto, ciao Matteo. Eccoti qua, ciao, da dove chiami? Sono da Brescia. Senti, tu vieni in live perché? Vengo live perché? Ti ho conosciuto la prima puntata di Vendo Tutto per caso, in giro per lavoro, e da allora ti seguo sempre. La prima poi puntata proprio, in diretta. Proprio quella della bottiglia, quindi era tipo il 18 sì. Gennaio 2010, se non ricordo male. Che lavoro fai, Emanuele? Allora, io dovrei fare operaio metalmeccanico, ma in questo momento sono in cassa integrazione, quindi... Ok, da quanto sei in cassa? Da un po', vado un po' no, da 3 anni quasi. Ah, ok. Cioè, nel senso sì. Che è una cassa integrazione per cui o lavori o non lavori proprio, non fai periodi, non fai tipo 4 ore. No, se mi chiamano vado, se no no. Ok. E quindi adesso sei a casa in questo momento? Sì, ma, sono in biblioteca. Ma stai cercando altro oppure rimani in no, attesa che le cose migliorino? No. Per adesso no. Va bene. E allora aspettiamo e speriamo che vada meglio. Emanuele, ci vediamo giovedì, fateli conoscere. Sicuro. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie anche a te. Riusciamo, Rosy, al volo, che poi diamo linea a Roma. Pronto, Rosy? Perché, ciao, perché? Rosy. Perché io abito a Monza e qualche mese che ti sento e ho voglia di farti conoscere. Bravo. Rosy, magnifico, mi sembrava, abito a Monza, sono vicino, non c'è niente da fare, valeva uguale. Sì, il giro è questo, un po' come quando c'è l'autodromo, no? Dici, perché non andare? Tanto c'è anche l'anno prossimo, ma questa volta voglio esserci. Ciao Rosy, ci vediamo giovedì. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666, ma soprattutto voi siete qui alla pagina di Radio 24 per iscrivervi. Stiamo chiudendo. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino, buonanotte, a Margherita Ina e a Pietro Lacorte. Grazie a Gianni, soprattutto, la sera di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Simone, sono di Roma e la storia di domani è la mia e parla di una giornata dei nonni.